capire perché in ogni cosa c'entri te. In ogni luogo dove metto piede vero te. In ogni bar, discoteca o pizzeria sei onnipresente, cos'è una magia? Ma dimmi, forse mica il dono dell'ubiquità. Vorresti poi che ti chiamassi sua maestà. Ma come fai ad avere l'impossibile? Come mai ti guarda a me viene da ridere? Macchine sgargianti da mille una notte, donne che a guardarle sono tutte mignotte. Poveri coglioni vestiti tutti uguali, tutti in fila per entrare in quei cazzo di locali. Con quei capelli ridicoli tipo Tokyo Hotel, io vi farei fare una fine tipo hostel. Voi che siete sempre in coppia stile scroto, la vostra estinzione io la metterei al voto. Voi che non sapete mai che cosa fare, poi voi non avete personalità. Voi discorsi seri mai che cosa sono, poi se lo chiedete nessuno lo sa. Forse è vero, tu sai tutto di tutto, ti osservo e penso una parola: lutto. Non so perché tu mi fai questo effetto, caro amico, caro, caro, caro, che mi dai rigetto. Ed ora pensi che sono troppo cattivo, magari un po' maleducato e schivo. Solo perché non ti cago di striscio, ma quelli come te gli farebbe re del fiscio. Scarpe di Prada taroccate per forza, depilazione totale, tristezza. Costantino è un esempio, che sfiga. Poi ti masturbi in bagno sulla foto di una figa. Fate ridere a cazzo, pagliacci. A voi do il valore di un ammasso di stracci. Aperitivo in piazza nel solito bar, tanto per atteggiarsi e sentirsi un po' una star. Voi che non sapete mai che cosa fare, poi voi non avete personalità. Voi discorsi seri mai che cosa sono, poi se lo chiedete nessuno lo sa. Non dirmi che ancora non l'hai capito, questa è per chi la sente e non si è divertito. Tu che fai il truzzo e ti senti superiore, ma fondamentalmente lo sai di essere un